Ci compreremo una nuvola in cielo per festeggiare la luna di miel. Sotto un cartello ricamato scriviamo riservato e andremo a tondo per il cielo. Ci compreremo una nuvola in cielo, la più leggera e più bianca che c'è, da facciati sul cielo blu. Vedremo il mondo girare laggiù. La notte giocheremo con le stelle ed un diadema te ne farò, tirando le comete per la coda. Il tuo nome nel cielo scriverò. La, la, la, la, la. Ci compreremo una nuvola in cielo per festeggiare la luna di miel. Fuori del mondo, solamente con te, potrò salir fino al settimo cielo. Giocheremo con le stelle ed un diadema te ne farò, tirando le comete per la coda. Il tuo nome nel cielo scriverò. Ci compreremo una nuvola in cielo per festeggiare la luna di miel. Fuori del mondo, solamente con te, potrò salir fino al settimo cielo.